siamo in presenza di un problema grande, di un problema sociale serio qui in Campania, che in un modo o in un altro dovrebbe essere affrontato dalle forze politiche. E non è un caso che io in commissione ho chiesto al Partito Democratico di metterci seduti intorno al tavolo per dare una definitiva soluzione a questo problema. È chiaro che nessuno di noi vuole coprire l'illegalità, vuole coprire gli abusi, e non è un caso che il nostro disegno di legge è molto limitato, perché parla solo della riapertura dei termini del condono. Tutto il resto deve essere affrontato. Abbiamo, il direttore Cosenza lo sa benissimo, abbiamo circa 175.000 abitazioni in Campania che non verranno abbattute mai, perché al ritmo di abbattimento di 30 case all'anno ci vorranno non so quanti secoli per abbattere definitivamente questa città. Ma allora bisogna condonarle? No, assolutamente no, bisogna, come diceva il direttore Cosenza, decidere e per il loro abbattimento stanziare le relative risorse, se no l'illegalità resterà, come dire, qui in Campania e verrà rappresentata da queste case, abusive. Però lei ha detto che il ministro dell'ambiente Clini in questo articolo ha detto non se ne parla, pare che il ministro dell'ambiente l'abbia anche chiamata, cercando di farla desistere da questa cosa. Tanto, però io la ringrazio per questa domanda. È assolutamente falso che io abbia parlato con il ministro Clini. E è assolutamente falso che in questo non esistente colloquio il ministro Clini mi abbia parlato di un provvedimento amministrativo, perché se ciò avesse fatto avrei ricordato al ministro Clini, che me lo dovrebbe sapere da solo essendo ministro, che la riapertura dei termini di una legge non si può fare con un provvedimento amministrativo. E ove mai, e per assurdo, si potesse fare con un provvedimento amministrativo, il ministro Clini lo faccia. Quindi il ministro Clini, quando dice quindi il ministro Clini che al Corriere dice ho chiamato Nitto Palma, non è vero, è falso. Senta, le chiedo anche questo: sa come l'ha definita Renzi? Cioè, lei non ha fatto il suo nome, ma su Twitter Renzi ha scritto: vogliono riaprire i termini del condono, neanche eccetto la qualunque, visto che lei è il primo firmatario, per deduzione si può dire che lei è eccetto la qualunque per Renzi. Io ringrazio, come dire, di questa cortesia il sindaco di Firenze. E posso semplicemente dire che, eccetto la qualunque, probabilmente i soldi che rubava li portava alle Cayman, e inviterei il sindaco di Firenze a, nelle sue camminate per le primarie, che fa anche qui in Campania, a frequentare meno banchieri e, come dire, a verificare dal vivo qual è la realtà di questo problema sociale qui in Campania, che per molte case, il direttore Cosenza lo sa benissimo, rappresenta un problema di necessità. Nessuno vuole aiutare gli speculatori, nessuno vuole mantenere in vita i mostri ambientali. Cioè, il condono per molti è una necessità? No. Per alcuni è una questione di necessità. Mi scusi, il problema che pongo io è diverso. Voglio semplicemente riaprire i termini di quel condono per condonare quello che si poteva condonare. Aggiungo che noi emenderemo questo disegno di legge prevedendo l'utilizzo delle risorse finanziarie che derivano da questa riapertura dei termini per consentire gli abbattimenti delle case abusive che non rientrano nel condono del 2003 e prevederemo una legislazione di maggiore rigore sotto il profilo della vigilanza, perché qui non si vuole neanche affrontare un altro problema, e cioè che queste 175.000 case abusive sono state costruite nel più assoluto silenzio da parte delle istituzioni.